vaghi con la mente nelle utopiche illusioni. Adesso chiudi gli occhi, schiavo delle verità, scorticato vivo dalle false religioni, nella prospettiva della relatività, somiglio a te, piccolo eroe, anacoreta senza verità, somiglio a te, piccolo eroe, aliante tra le nuvole, nel volo di Aristotele, eroe, che mi ha insegnato a vivere così. Negli agrumeti lavici, lontano faro di verginità, piccolo eroe. Vaghi con la mente tra la ruggine e il dolore, figlio della guerra dea, della fecondità, e nel guscio antico senti il battito del cuore che attraversa il tempo, lampo dell'eternità. Ma tu chi sei, piccolo eroe, la consonante che mi guiderà, somiglio a te, piccolo eroe, al viaggiatore effimero che sta svoltando un angolo. Vorrei gli specchi per vedere dove andrai, la magica clessidra nell'ambra grigia si dissolverà, piccolo eroe, un parallelepipedo di un equilibrio ellenico, eroe, piccolo eroe.